possono essere italiani, sicuramente lo sono le motovedette, perché durante il governo Conte 1, quando c'era appunto Salvini al Ministero dell'Interno, furono regalate 10 motovedette alla Guardia Costiera Libica. Alcune erano anche in dotazione alle nostre guardie costiere, e per inviarne furono tolte appunto le mitragliette, che poi di fatto rimisero in 5 minuti appena arrivarono lì, insomma, perché è una questione molto semplice, no? Ecco, sapere poi se quel tipo di arma usata ieri sia proprio italiana, questo diventa un po' difficile. È molto probabile, perché ci sono state forniture di armi in questi anni alla Guardia Costiera Libica, quindi chiaramente, oltre all'addestramento che è continuato, questa è la questione più rilevante, cioè non si capisce come la Guardia Costiera Libica, addestrata da militari italiani, spari ai pescherecci italiani. Questa è la domanda fondamentale, credo che sarebbe bene sollevarla in Parlamento. Ecco. Era un pretesto anche per parlare di un rapporto recentemente uscito sull'export di armi italiane, che tu hai raccontato in un articolo su Osservatorio Diritti, e la Libia, diciamo, che è uno dei beneficiari delle armi italiane. Sì, non si sa mai di preciso dalle relazioni, questo è un fatto che denunciamo da anni, e che cosa di preciso venga inviato. Bisogna fare tutta una serie di incroci tra le varie relazioni dei vari ministeri, e se fortunati si trova qualcosa. Ma comunque c'è una, diciamo, una dicitura della tipologia di armamenti che verrebbero inviati, e in questo caso si parla di esplosivi. Ci sono anche dei veicoli terrestri, ma poi ci sono agenti tossici, chimici, biologici, gas lacrimogeni, i materiali radioattivi. Qui molto probabilmente sono agenti tossici o gas lacrimogeni, e apparecchiature elettroniche per un valore di non poco, ecco, di 5 milioni e 800 mila euro. Più in generale, però, paesi in stato di conflitto continuano a essere beneficiari di forniture italiane. E questo è il dato più preoccupante che ho rilevato nel mio articolo appunto per l'Osservatorio Diritti, che è questo. Cioè, praticamente ormai dal 2016, cioè dal governo Renzi, i paesi del Nord Africa e Medio Oriente sono i principali acquirenti e destinatari di armamenti italiani. Nell'ultimo anno, quello di cui stiamo parlando, perché è l'anno 2020, di fatto la più grossa commessa è quella che riguarda le due fregate FREM, originariamente destinate alla Marina Militare Italiana, che sono state appunto inviate in Egitto. Poi in Egitto viene inviato anche tanto altro materiale, e anche questo dovrebbe sollevare più di un, diciamo, interrogativo da parte dei nostri parlamentari. Al secondo posto troviamo il Qatar, al quale è stato inviato praticamente una cosa molto interessante, un mini sottomarino del valore di 220 milioni di euro, che può servire ovviamente per la difesa, diciamo così, dei porti, ma serve anche per incursioni verso navi o verso petroliere, ed è tutto da capire il tipo di utilizzo che ne verrà fatto di questi due mini sottomarini. Praticamente sono anche strumenti d'attacco sostanzialmente, no? Tutto questo ci dice una cosa ormai molto chiara, cioè che l'esportazione di armamenti italiani, che dovrebbe essere conforme alla politica estera di difesa dell'Italia, e che quindi dovrebbe essere principalmente destinata ai paesi della NATO e dell'Unione Europea, di fatto quello che vediamo è che in 5 anni praticamente il 50%, cioè il 49,8% di tutte le esportazioni di armamenti italiani sono state destinate ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. E quindi il Nord Africa e il Medio Oriente, che è la zona di maggior tensione del mondo, che è la zona dove ci sono le principali dittature sostanzialmente, per usare appunto le parole di Draghi, dove ci sono regimi autoritari, dove c'è una violenta repressione soprattutto degli oppositori ai vari governi, bene, questi sono i paesi principali destinatari degli armamenti italiani, nonostante appunto la legge italiana dica che è vietato esportare armamenti a paesi in conflitto armato, a paesi dove ci sono gravi violazioni dei diritti umani, a paesi che spendono ingenti risorse nella spesa militare. Ecco, tutta questa materia noi come Rete Italiana Pace e Disarmo chiediamo da anni che venga esaminata attentamente in Parlamento, perché non può essere che il governo invia alle Camere una relazione di 1500 pagine e poi rimane lì sui tavoli dei parlamentari. Fortunatamente ce ne sono due di fatti positivi: il primo, che va riconosciuto al governo Conte di aver sospeso, anzi revocato appunto all'inizio di gennaio, le esportazioni di bombe aeree all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, quelle che venivano utilizzate per bombardare lo Yemen, cosa che ha suscitato le rimostranze dell'azienda RVM Italia, che è un'azienda che sta in Italia ma è di capitale di fatto tedesco, ma le autorizzazioni sono rilasciate dal governo italiano, la Germania non c'entra niente in questo, e queste esportazioni sono state revocate, la l'azienda ha fatto ricorso al TAR e nei giorni scorsi il TAR praticamente ha rigettato il ricorso dell'azienda, dicendo proprio questo, cioè che i motivi economici non possono prevalere rispetto alla questione del diritto italiano, del diritto internazionale, alla salvaguardia delle popolazioni. Quindi una lode la dobbiamo fare verso il governo Conte 2 che ha revocato queste licenze. Purtroppo però c'è tanto altro materiale che viene inviato in queste zone e su questo andrebbe posta attenzione.